il mio mineralogico. Chiedi come ti reazioni a nozioni nel campo artistico e a quelle nel campo mistico. Aspetta, da volte mi stupisco quando sto in casa la vetta che svetta perfetta, nitida oltre la mente. Ma forse sono solo io che parlo troppo eccentricamente. No, però non posso accontentarmi, dovrei accantonare i calmi e darmi solamente esami di stampo spiritualista. Rappiendo al pensiero buddista, induista e chilista, ogni parte del sentiero che interessa. Non occorre, ci arrivo piano, anche se ero percorso sul banale piano materiale non chiaro e vano viale. L'orido storico consumismo, ma in vano, in quanto permane un vittimismo è solo per complottismo di fatto massale. Vibro, mi libro nell'aria e mi esprimo solo con me stesso, come col diario solare, ma sempre più spesso. Con quel pretesto per te essere un testo e ci resto, ma è questo del resto resta soltanto nel mio inconscio. Peccato, perché poi effettivamente sarebbe bello diffondere, no, ogni pensiero come semplice vibrazione della mente delle altre persone che tu c'è attorno, no? È un fatto di scompattazione materiale di ciò che c'è in testa, no? È un fatto che poi effettivamente può evolvere.